scendo giù al mercato a fare un po' di economia. Borsa della spesa in tela e cagna greca nera, sì, lei l'abbiamo trovata magra magra in riva al mar. È convinta che il mercato non si fidi di lei. Sono lì al mercato e vedo la signora Peach. Vende un pane splendido ma mi guarda male male. Poi mi sputa in faccia che a me non vende più. E sostiene che il mercato non si fidi di me. Sempre lì al mercato mi avvicino al signor Moody. Le migliori verze ma con fare minaccioso. Dice che il downgrade è cosa seria, mi caccia via. Qui mi pare che il mercato non si fidi di me. Corro nel mercato, i due cugini Standard & Poor's gridan pesce porco, non si addicon più al tuo outlook. Sciolgono al pastor tedesco, brrr, fa di nome spread. È palese, il mercato non si fida di me. Scappo dal mercato e quasi quasi mi domando se al supermercato troverai più empatia. Metto mano al portafoglio ma no, me l'han ciulato. E la cagna non le morde, lei si fida di me.